I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. La scorsa settimana è stata al cardiopalma per borse, obbligazioni e valute. L'evento scatenante è stato certamente la mossa della Banca Centrale Svizzera di togliere il tetto fissato 3 anni fa di 1,20 nel rapporto euro-franco. La decisione ha provocato riposizionamenti importanti dei portafogli degli investitori mondiali che per prima cosa hanno abbandonato l'azionario svizzero. La borsa naturalmente svizzera letteralmente crollata. Hanno apprezzato il franco su tutte le divise e hanno mandato in netto ribasso l'euro rispetto al dollaro, scivolando sul biglietto verde ai minimi da 11 anni a questa parte. La decisione non a caso arriva alla vigilia dell'appuntamento più atteso da mesi, quello con la Banca Centrale Europea di giovedì prossimo, chiamata a dare al mercato l'atteso quantitative easing versione europea. E se Mario Draghi dovesse dare il via libera all'operazione, si potrebbe arrivare ad una pioggia di liquidità sui mercati fino a 750 miliardi di euro. Anche il petrolio continua a scendere, anche se in settimana anche un'altra materia prima ha fatto parlare molto di sé per il crollo delle sue quotazioni, e cioè il rame. Si guarda naturalmente anche la crisi greca, domenica si vota per le politiche, ma anche alle notizie dall'Italia. Venerdì la Banca d'Italia ha tagliato le stime del PIL per il 2015 e intanto, in attesa della manovra di Draghi, il rendimento del BTP a 10 anni ha toccato il nuovo minimo storico all'1,68%. Oltre alla BCE, ecco intanto una rosa dei principali eventi della settimana. In Europa arriva lo ZEB tedesco, l'indice PMI preliminare manifatturiero dei servizi. Dagli Stati Uniti arrivano fiducia dei costruttori, nuove costruzioni abitative, vendite di case esistenti. Nel resto del mondo arriva il PIL cinese, le decisioni sui tassi in Turchia, Canada, Giappone e Brasile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. In un mondo dove, complice la crisi, continuano ad aumentare le disparità tra i pochi ricchi e i tantissimi poveri, anche il ceto medio rischia di subire una progressiva caduta verso le fasce meno abbienti della popolazione. È un fenomeno che non risparmia nessuno, neppure gli Stati Uniti, tanto che per trovare un rimedio persino il presidente Obama si appresta a infrangere un vero e proprio tabù per gli americani, vale a dire l'aumento delle tasse. Più tasse sui più ricchi per avere risorse da distribuire alla classe media attraverso un piano di sgravi fiscali alle famiglie con figli e misure di sostegno sociale come per esempio l'istruzione universitaria gratuita. Obama illustrerà domani la sua ricetta al Congresso e agli americani. Il piano dovrebbe fruttare 320 miliardi di dollari in 10 anni senza colpire i redditi da lavoro, ma con aumenti delle tasse sui capital gain e sui dividendi riservati ai contribuenti che hanno redditi molto alti e la tassazione dei trust, vale a dire quelle società di comodo che servono per trasferire la ricchezza agli eredi senza pagare tasse o pagandone molto poche. Noi non sappiamo, anzi siamo abbastanza sicuri che difficilmente queste misure entreranno in vigore, visto che il presidente Obama non ha più la maggioranza al Congresso e una parte dei repubblicani non accetterà mai l'idea dell'aumento delle tasse. Di certo però la sfida lanciata da Obama diventerà uno dei temi principali e centrali dell'imminente campagna elettorale americana e aprirà il confronto su una riflessione che non potrà essere ignorata neppure dai paesi della vecchia Europa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.